Sono in collegamento telefonico con Luca Perrone dell'archivio Alquati. Benvenuto Luca ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao e ovviamente saluto tutti i vostri ascoltatori, grazie dell'invito. Allora Luca, sarai questo giovedì all'evento della libreria Input dal titolo Riproduzione con ricerca, il modello di Romano Alquati. Diciamo innanzitutto che cos'è questo modello di Romano Alquati per chi non lo conoscesse, ecco, magari se ci vuoi raccontare qualcosa. Sì, io inizierei da chi è Romano Alquati, non dubito certo che tutti i vostri ascoltatori sappiano effettivamente che Romano Alquati è un intellettuale, un sociologo che è nato a Cremona nel 1935, ha passato buona parte della sua vita a insegnare all'Università di Torino, a insegnare sociologia industriale alla Facoltà di Scienze Politiche ed è scomparso nel 2010, quindi circa una decina d'anni fa. Ha fatto parte della redazione di alcune delle più importanti riviste dell'operaismo italiano, di questo filone del marxismo, diciamo, eretico, eterodosso, un po' della sinistra italiana, per esempio Quaderni Rossi e Classe Operaia, che negli anni 60 sono stati tra le due principali riviste, più importanti riviste teoriche, insomma, dell'operaismo. Ed è stato, normalmente viene ricordato e riconosciuto da chi, insomma, interessa a studiare il pensiero politico radicale in Italia, in particolare per alcune categorie che sono state molto utilizzate all'epoca, negli anni 60, erano molto avanzate. Facciamo conto che Alquati, come Toni Negri, come Mario Tronti, come altre figure di quello spessore, Sergio Bologna, insomma, avevano di fronte in Italia, negli anni 60 e 70, un marxismo sclerotizzato, quello di natura di Beatrice Togliattiano, quella con la, insomma, versione nazional popolare di Gramsci. Lui è normalmente famoso e delegato per aver individuato, creato alcune categorie come quelle di composizione di classe, cioè la capacità di leggere a partire dai comportamenti, non da un livello ideologico, com'era effettivamente la classe operaia, come erano effettivamente i lavoratori, quali lotte, quali forme di lotte esplicite, implicite, di rifiuti di fronte alla catena di montaggio, alla fabbrica, mettevano in atto. Ovviamente questo ha avuto delle ricadute anche organizzative importanti. In quel filone Romano Alquati è stata una figura importante, non tanto conosciuta ma importante. Nel 1975 pubblica un famoso libro, insomma, sulla Fiat e altri scritti per Feltrinelli. La cosa che l'archivio Alquati fa è che insomma, questo gruppo di persone che hanno conosciuto in gran parte Alquati, che hanno seguito le vicende anche teoriche, gli scritti di Alquati negli anni fino alla sua scomparsa, e che stiamo facendo in questo momento, è quello di cercare di rimettere in circolo le produzioni successive a queste diciamo più classiche, attraverso le quali Alquati è stato conosciuto in tutta Italia. Sempre a metà degli anni 70 un numero della rivista filosofica Out, per esempio, era dedicata tutto a lui, per dire. Però invece molto meno conosciuto, anzi del tutto sconosciuto, è la produzione successiva, quella in particolare della fine degli anni 80 e per tutti gli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, che secondo noi, se possibile, ancora più innovativa e ancora più interessante, e che vale la pena di essere ripresa oggi, perché ci permette, le categorie che lui utilizza ci permettono in maniera, io direi, davvero molto interessante di interpretare la realtà in cui siamo oggi. E per cui l'operazione che stiamo cercando di fare è esattamente questo, il passaggio che viene fatto giovedì, di presentare in particolare due testi che fanno riferimento al secondo Alquati, diciamo così, a quello più recente e che secondo noi è quello anche più interessante. Come dicevi tu, appunto, giovedì sarete alla libreria Punto Input per parlare proprio di tutto questo, e ti volevo chiedere sia con chi dialogherai ma anche a chi è rivolto, a che pubblico è rivolto questo incontro, a chi conosce già Alquati o anche a chi magari non ne ha mai sentito parlare. Tendenzialmente, immagino, conoscendo le persone che l'hanno organizzato, che sono in particolare Francesco Bedani e Francesco Iannilli, che sono tra l'altro i curatori di uno dei due libri, Un cane in chiesa, militanza, categorie con ricerca di Romano Alquati, che è un libro che è uscito recentemente per Deriva Prodi, che insomma raccoglie una sorta di introduzione al pensiero di Romano Alquati. Il secondo libro che presenteremo sarà invece il primo volume, cioè l'ultimo che Alquati ha scritto, sulla riproduzione della capacità umana vivente, sempre che esce per Deriva, è appena uscito quest'estate per Deriva Prodi, ed è, sono gli ultimi scritti inediti che sono messi in circolazione all'interno di un progetto di Deriva Prodi, che è quello di ripubblicare progressivamente l'opera, sia quella che è stata già pubblicata ma in case editrici piccole, comunque oggi non più rintracciabile sul mercato librario, sia degli inediti di Alquati. A quale pubblico ci si rivolge? Sicuramente a un'area di persone, io direi, attivisti e militanti dei movimenti, nel senso che la scrittura di Alquati, non difficilissima ma non semplicissima, nel senso prevede persone di buona volontà che abbiano voglia di misurarsi con delle categorie profonde di analisi della realtà, e l'ideale è effettivamente un pubblico di attivisti, di, io direi in senso molto largo, di tutti i movimenti che ci possono essere, i movimenti ambientalisti, a quelli invece dei servizi, nei movimenti della formazione, gli studenti, insomma, un'ampia gamma, perché il tema è ovviamente a tutte le persone che sono curiose e interessate a un pensiero critico, a un'analisi critica della realtà in cui viviamo. La premessa di Alquati, che è quello che lui chiama questo, tra virgolette, cioè il nostro mondo, è qualcosa che deve essere cambiato, perché insomma non ci arricchisce, non in termini monetari, ma come vita, ma anzi impoverisce abbastanza nelle nostre esperienze e nelle nostre attività. Ovviamente ci rivolgiamo a un'ampia fetta di persone, soprattutto in una città come Bologna, a interloquire, oltre a discutere delle tesi di Alquati, in particolare una questione che è centrale nel pensiero di Alquati, poi magari ci ritorniamo sulla questione della centralità della riproduzione oggi, del tema della riproduzione nella società, che insomma in questo tipo di società in cui viviamo. A parlarne sarà ci sarò io, che ho l'unico merito di aver recentemente coordinato insieme a Maurizio Pentenero la stesura di uno Scavi, che è una sorta di antologia di scritti di Alquati, che si può scaricare sulla rivista Macchina di Deriva Prodi. Il titolo è La riproduzione del futuro. Però ben più rilevante, insomma, della mia per storia, della mia presenza, è Alisa Del Re, che è una studiosa che ha insegnato a lungo dal 68 al 2013 all'Università di Scienze Politiche a Padova, ha insegnato a Paris 8 a Parigi, e che ha fondato il Centro Interdipartimentale di Ricerca Studi sulle Politiche di Genere. Perfetto, Luca, io ti ringrazio veramente per averci raccontato qualcosa di più su Romano Alquati, e ricordo che, insomma, a chiunque fosse interessato, questo giovedì ci sarà l'evento alla libreria.input. Grazie ancora, Luca. Buona giornata, grazie a voi.